Letture di Radio 24. In tempi di crisi, l'Inghilterra taglia i contributi sul Viagra, perché il sesso non è una componente essenziale della vita, ma un lusso. Niente sesso, siamo inglesi. Ci risiamo. Stavolta non è un problema di libidine declinante, ma di crisi incombente. Un mondo impaurito in cui anche il piacere fisico diventa un eccesso da tassare, sottraendolo alle fasce deboli come un beneficio illecito. Soffocato dai costi della sanità, terrorizzato dai fantasmi di un'Europa cattiva, il governo britannico ha invitato i medici di base a ridurre le prescrizioni mensili di Viagra, da 4 pillole a 2. Un modo per dimezzare i costi da 78 a 39 milioni di sterline all'anno, pensato da chi odia l'entusiasmo di massa per la felicità. Per quanto la prescrizione gratuita sia ristretta a diabetici, malati di cancro alla prostata o di sclerosi multipla, gli inglesi che ne hanno diritto sono 2 milioni, uomini tra i 40 e i 60 anni che secondo le statistiche hanno rapporti sessuali una volta alla settimana. Ora, dice l'associazione dei medici, si accontenteranno di 2 rapporti al mese. Si fa passare il messaggio che il sesso non sia una componente essenziale della vita, ma un lusso, come un SUV o uno yacht, una collana di diamanti riservata a chi ha 40 sterline da spendere per una scatola di felicità blu. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Malaguti, Londra, se la mutua taglia il Viagra, dalla Stampa del 9 dicembre.